buongiorno a tutti. Il programma oggi alle 12:23 prevede di parlare di relitti, di quasariani, di atlanti e nonché di quozienti di intelligenza.